Radio Radicale, al nostro microfono Monio Vadia, che recentemente in un'intervista al Fatto e poi in un suo articolo in prima pagina sul Manifesto ha ricordato che ha lasciato la comunità ebraica di Milano. Allora, noi vorremmo che tu innanzitutto raccontassi ai nostri ascoltatori, ascoltatori di Radio Radicale, il motivo di questo abbandono. Dunque, io sono da molti anni, da che ho radicalizzato le mie critiche al governo Netanyahu per la politica di repressione, di colonizzazione e occupazione delle terre palestinesi, solo limitatamente a questo, perché io di questo mi occupo, di diritti degli oppressi. E sono stato emarginato sempre più, non ricevo inviti, nessuno mi ha mai più chiamato i giorni della... Le giornate della cultura ebraica, quella classica che accade tutti gli anni il 3 di settembre o giù di lì, naturalmente non tutte le comunità, mi riferisco alle principali soprattutto, ma io ho abbozzato, ho criticato, ho detto le mie opinioni, ho stigmatizzato il comportamento di certi ebrei che sono molto molto carini e sorridenti con gli ex fascisti, la gente che faceva il saluto romano fino a ieri inneggiando allo sterminio della nostra gente, adesso quelli sono buoni, perché tu puoi essere anche un infame nazista, ma se sei amico di Netanyahu, per loro va qualsiasi cosa. Ho sempre stigmatizzato questa cosa, criticando civilmente, duramente, ma civilmente. Recentemente c'è stata a Milano una manifestazione durata tutto il mese di ottobre intitolata Jewish and the City. È stato fatto il mio nome da qualcuno nel comitato organizzatore che è all'interno della comunità ebraica anche, per chiamarmi a fare uno spettacolo, un incontro, e da alcuni degli organizzatori, la parte più reazionaria e retriva, è stato messo letteralmente il veto alla mia presenza. Io ne sono stato informato da alcuni che erano presenti e testimoni, e ho deciso che io non posso stare in un'organizzazione che si comporta come l'ufficio propaganda di un governo e che assume provvedimenti, guarda, per non fare troppa retorica, dico stalinisti. Recentemente un mio amico violinista violinista ebreo di Odessa, che ha vissuto naturalmente l'Unione Sovietica di Brezhnev, il quale è israeliano di passaporto, il quale la pensa esattamente all'opposto di me politicamente, ha detto che lui vuole scrivere una lettera dicendo che quello che hanno fatto è ignobile, perché lui dirà: io non sono d'accordo con Monio Vadia, ma quello che avete fatto a lui era quello che faceva lo stalinismo brezhneviano a me perché ero ebreo. Questo per capire. Quindi io ho detto: cosa ci sto a fare? Non ho più niente a che vedere con questa gente. E ho deciso di andarmene, perché io ci tengo all'ebraismo, e questa cosa è la cosa più schifosamente anti-ebraica che posso immaginare. E quindi ho deciso di andarmene, mi iscriverò a una comunità civile, perché ce ne sono. Ci sono altre comunità, adesso vediamo dove, perché la mia identità ebraica per me è importante. Però io non posso accettare queste cose da parte poi di gente ridicola che starnazza che Israele è l'unico paese democratico del Medio Oriente, e poi quando qualcuno ne critica il governo duramente ma democraticamente lo ostracizzano. Quindi sono ridicoli. Poi c'è stato un consigliere, mi sembra certo Nahum, che ha detto che io non me ne andavo per questa ragione, ma perché non avevo avuto uno spettacolo, cioè per soldi. Mi sembra un grave refuso antisemita. L'ebreo Monio Vadia fa quello che fa per i soldi. Un antisemita astuto potrebbe dire: beh, cosa c'è da stupirsi, tutti gli ebrei lo fanno. Ecco, io ti volevo però chiedere un'altra cosa, cioè nelle comunità però ci sono delle componenti critiche, per esempio delle politiche israeliane, dei governi di destra, mi viene da pensare per esempio a Milano, la rivista che esce, a Roma c'è il gruppo Martin Buber, a Torino il gruppo di studi ebraici. E allora, cioè, abbandonare la comunità io mi iscrivo un'altra comunità, io non abbandono la comunità, non hai fiducia che si possa cambiare con queste componenti? No, in questo momento no, finché non si chiarisce una cosa, che le comunità ebraiche devono, io feci un manifesto per una proposta, le comunità ebraiche devono fare riferimento secondo me a tre cose: come esseri umani alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, come cittadini italiani alla Costituzione Repubblicana, come ebrei alla Torah, al Talmud, non alle decisioni del governo di Israele. E mi dispiace, questa cosa non è assolutamente chiara. E io conosco, sono amico, io ho tantissimi amici, gente che mi vuole bene. Secondo me non si può mettere una pezza a questa cosa. Deve essere un dibattito che deve essere aperto, uscendo con uno statuto chiaro che dica che naturalmente i rapporti di amicizia con il popolo di Israele, eccetera, questo io non voglio dire. Ma che il governo eletto di un governo laico e non ha le sue decisioni, i suoi provvedimenti non hanno nessuna influenza su quelle che sono le nostre scelte. Uno può essere d'accordo e l'altro può non essere d'accordo, ma non può fare valere quello come valore ebraico. Finché non è chiarito in modo preciso e radicale questa cosa, io non posso entrare in una comunità che poi magari dice si fa del razzismo, si confonde Israele e gli ebrei con Israele, col governo. E cosa fanno loro? Fanno tutto il giorno quello. Allora, io sono una persona coerente, sono una persona seria, sono stato dentro oltre ogni misura, perché io, ripeto, ho glissato su tutte le emarginazioni, sugli insulti che ricevo a fiumi come nemico del popolo ebraico, antisemita, rinnegato, senza che uno solo dei rabbanimi istituzionali abbia alzato la voce per dire non io sono d'accordo con Moni Ovadia, anzi dire io non sono assolutamente d'accordo con Moni Ovadia, ma Moni Ovadia ha il diritto di dire le sue opinioni e nessuno lo può calunniare in questo modo ignobile. Nessuno si è alzato a dirlo. Questa non è una comunità ebraica. L'ultima cosa è proprio su Israele. Marco Pannella molto spesso ha ricordato, negli ultimi tempi in particolare, che il governo israeliano si comporta un po' come molte altre partitocrazie, che non sentono la voce del popolo, e per cui, per esempio, lui fa l'esempio di come il popolo israeliano si è pronunciato più volte, secondo sondaggi di grandi istituti come Adenauer, eccetera, per l'entrata nell'Unione Europea, e invece il governo israeliano, in una deriva che appunto Pannella definisce nazionalistica di questo governo, non ascolta minimamente il parere appunto del suo popolo. Con tutto il rispetto che devo a Marco Pannella, io mi capita di non essere d'accordo con lui, ma su questa cosa io sono totalmente d'accordo con lui, cioè la decisione, una decisione del genere dovrebbe essere messa a un referendum, dovrebbe essere ammessa a un referendum popolare, anche per i legami che l'ebraismo ha con l'Europa. Ma perché secondo me il governo Netanyahu non lo vuole? Perché se domani Israele diventasse il confine medio orientale dell'Europa, con quali giustificazioni opprime come fa i palestinesi? Non troverebbe più una sola argomentazione. Se domani l'Ayatollah che adesso governa l'Iran dice voglio riconoscere Israele, vengo a Tel Aviv, facciamo la pace, Netanyahu poveretto non saprà dove sbattere la testa, perché sicurezza, pericoli, sono argomenti molto seri, solo che questa destra li usa come pretesti, e il pretesto è quello di espropriare il popolo palestinese dei suoi diritti. Grazie Moni Ovadia. Grazie a voi.